Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. '17:09, buon pomeriggio, e sì, l'avete sentito, Vincenzo Miglietta, buon pomeriggio. Oggi ci sono io, ma domani ritroverete Sebastiano Barisoni come tutti i giorni. Quindi inizia un'altra puntata di Focus Economia. Diversi i temi di questa giornata economico-finanziaria, dalla manovra di bilancio alle previsioni del governo per i prossimi anni. Ieri la presentazione da parte dell'esecutivo e poi il recovery plan. Faremo un punto: che fine ha fatto, nel senso cosa sta succedendo a Bruxelles, quali saranno i tempi per accedere al recovery plan. E poi parleremo del decreto di agosto approvato oggi dal Senato, attraverso anche la fiducia c'è poi il passaggio alla Camera, e poi faremo il punto sul comparto del turismo in un anno veramente particolare che ha visto questo settore particolarmente in crisi. Temi che andremo ad affrontare nelle loro dinamiche, però con l'incognita rappresentata dall'evoluzione della pandemia e da Covid. Le stime economiche che il governo ha presentato ieri potrebbero cambiare radicalmente di fronte a scenari negativi, lo ammette lo stesso governo, che infatti ha fornito tabelle che prevedono anche questo scenario negativo. Ma per fare solamente un esempio, che approfondiremo poi più tardi, pensate per esempio a cosa potrebbe succedere al settore del turismo, che in soli 8 mesi ha già subito, causa lockdown, tagli in presenze ed arrivi rispettivamente del 52,5 e del 51,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi lockdown generali, ma anche di filiera, vanno sicuramente evitati. Il governo, lo abbiamo sentito dal GR delle 17, si appresta in questi giorni a varare un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Problemi di numero legale alla Camera probabilmente faranno slittare questa approvazione, ma si tratta di ore, di pochi giorni. Di base si sposterà al 31 gennaio lo stato di emergenza. Però noi andiamo ad ascoltare subito le parole del ministro Speranza, intervenuto oggi in Parlamento, perché ci danno l'idea di dove sta andando l'esecutivo. Le tre regole fondamentali sono l'asse portante del DPCM che andremo a proporre al Parlamento, poi alle regioni nelle prossime ore. Le tre regole fondamentali: la prima, l'utilizzo corretto delle mascherine, uno strumento essenziale per contrastare la diffusione del Covid. Nel DPCM che ci accingiamo ad adottare, valutiamo l'estensione dell'obbligo dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. La seconda regola essenziale che abbiamo imparato in questi mesi è quella del distanziamento di almeno 1 metro ed è quella del divieto di assembramenti. E per questo noi lavoriamo nelle prossime ore per aumentare il livello di controlli, perché gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci e che rischia di favorire un'ulteriore impennata della curva. E ancora il terzo punto, come è noto, ha a che fare col rispetto delle fondamentali norme igieniche e in modo particolare con il lavaggio delle mani. E queste dunque le parole del ministro della Salute Roberto Speranza. Abbiamo sentito indicazioni molto pratiche che conosciamo ormai da diversi mesi, ma anche indicazioni importanti, quindi proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio, mascherine, si va verso le mascherine, l'obbligo di mascherine su tutto il territorio nazionale, logicamente all'aperto, e poi studio di ulteriori misure di prevenzione. Questo terzo aspetto è quello che lascia un po' più preoccupati, perché tutti i vari comparti produttivi temono che vi siano comunque dei rallentamenti non generali, sicuramente, ma comunque localizzati o di filiera, che possono veramente mettere in difficoltà l'economia. Lo ribadiamo ancora una volta, l'aspetto sanitario è fondamentale, a seguire arriva l'aspetto economico, che non può essere messo da parte. E su questo mi avvalgo del Sole 24 Ore di oggi, che riporta gli scenari negativi prospettati dallo stesso governo in caso di una seconda ondata. Il prodotto interno lordo avrebbe un ulteriore taglio del 4,8% nei prossimi due anni. Vi ricordo che la previsione per il 2020 è di un meno 9%. Il governo è abbastanza soddisfatto che non si arriva ad un taglio a due cifre, ma meno 9% è un taglio molto importante. Per darvi l'idea di come però il mondo dell'industria stia nei pensieri del Quirinale, lo abbiamo sentito anche dal GR, il Presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda la ripartenza dell'industria dopo la fase di blocco imposta dalla pandemia. Mentre ancora il mondo intero si trova ad affrontare l'emergenza sanitaria, è decisiva per il nostro sistema paese. Quindi si deve ripartire dall'industria. Anche il governatore di Banca Italia, Visco, ricorda come le piccole imprese devono crescere di dimensione, soprattutto in questo momento particolare. Questa è un po' la nostra premessa. Vi ricordo brevemente, quindi, noi andremo a parlare della NADEF, quindi delle variazioni al documento di economia presentato dal governo ad aprile, quelle che sono le ultime previsioni del governo, e poi parleremo di turismo, parleremo del recovery plan, quindi cercheremo di capire cosa sta avvenendo a Bruxelles. Brevemente, prima delle notizie, in breve uno sguardo rapido ai mercati. Il FTSE MIB territorio positivo, più 0,86%. Vediamo anche gli altri mercati internazionali: Londra meno 0,06, Francoforte più 0,64, Parigi più 0,49. Per quanto riguarda Wall Street, Dow Jones è più 0,16, Nasdaq meno 0,35, Standard e pur 500 meno 0,07. Un elemento importante in questa giornata di attesa per le decisioni del governo: il rapporto tra BTP e Bund, che è sceso sotto la soglia psicologica dei 130 punti, in questo momento è 128,7, meno 1,15. E per chiudere, il cambio euro-dollaro 1,17928. Ricordo, in regia Alessandro Chiappini, Valeria Bernardi, in assistenza al programma Maria Sole Lisciandro e Danilo Di Trani. Passiamo alle nostre notizie in breve. Notizie in breve, che come sempre facciamo scattare dal petrolio: più 3,03% a $40,41 il barile. E poi i dati del Fondo Monetario Internazionale. L'economia globale sta emergendo dal profondo della crisi, dice l'FMI, ma questa calamità è lungi dall'essere finita. Tutti i paesi sono di fronte a quello che chiamo la lunga ascesa, una difficile salita che sarà lunga e incerta e prona a battute d'arresto, lo afferma il direttore generale dell'FMI, Kristalina Georgieva. E su questo argomento interviene anche il presidente della Fed, Jerome Powell, che dice la ripresa è stata più veloce del previsto, ma le prospettive economiche restano altamente incerte. Powell evidentemente si basa anche sui dati americani. Per lui, in prima battuta, il deficit commerciale all'ora americano in agosto sale del 5,9% a $67,10 miliardi, il rosso maggiore dal 2006. E veniamo nel nostro continente, nel vecchio continente. L'Ecofin ha deciso di aggiungere alla lista delle giurisdizioni non cooperative le Barbados, mentre ha rimosso le isole Cayman ed Oman dopo aver approvato le necessarie riforme per migliorare il quadro della tassazione. Parliamo in questo caso dei cosiddetti paradisi fiscali. E in Germania l'export traina gli ordini di fabbrica, stiamo parlando di agosto. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica della Germania, gli ordini sono saliti del 4,5% contro le stime del 2,8%. Un settore particolarmente in difficoltà è quello del trasporto aereo, che brucerà 77 miliardi di dollari durante la seconda metà del 2020, quasi 13 miliardi di dollari al mese, o se li vogliamo quantificare al minuto si tratta di 300.000 dollari al minuto. L'allarme arriva dall'International Air Transport Association. La lenta ripresa dei viaggi aerei vedrà l'industria aerea continuare a bruciare denaro contante ad un tasso medio compreso tra 5 e 6 miliardi di dollari al mese nel 2021, spiega la IATA in una nota invitando i governi a sostenere l'industria durante la prossima stagione invernale con ulteriori misure di soccorso, compreso un aiuto finanziario che non aggiunga più debito al bilancio già fortemente indebitato del settore. E quindi vediamo che tutto è collegato, ma non lo scopro oggi io, il mondo del turismo, il trasporto aereo, non c'è settore che si possa ritenere esente dai riflessi della crisi che ha colpito l'intero pianeta dal febbraio di quest'anno. Veniamo a parlare dell'Italia, del nostro paese. Abbiamo i dati oggi dell'Unione Petrolifera. Alla crisi della domanda legata all'emergenza sanitaria, pari a meno 80% tra marzo ed aprile, si è aggiunto il crollo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, che si è ridotto in due settimane del 60%, generando in pochi giorni un ammanco di cassa per il settore superiore ai 4 miliardi, lo dice il presidente dell'Unione Petrolifera, Claudio Spinaci. Oggi, lo ricordiamo, vi è stata l'assemblea annuale dell'associazione. Qui una piccola parentesi: l'Unione Petrolifera cambia il nome e diventa UNEM, Unione Energie per la Mobilità. E vediamo la cosiddetta filiera del credito. L'ABI segnala che ieri, 5 ottobre, i finanziamenti richiesti dalle banche al fondo di garanzia hanno sostanzialmente raggiunto gli 88 miliardi di euro, precisamente 87,99, per 1.138.000 domande, di cui 924.000 fino a 30.000 euro, per 18,1 miliardi di euro. L'impegno e la concorrenza fra le banche e i costruttivi rapporti col fondo di garanzia stanno facendo raggiungere sempre più importanti risultati, afferma dunque l'Associazione Bancaria Italiana. E il superbonus. Il superbonus interessa sempre a tante persone, è veramente un argomento a 360 gradi. Allora, a livello così burocratico, possiamo dire che il superbonus e il sisma bonus al 110% per favorire l'efficientamento energetico e gli interventi antisismici sono pienamente operativi, lo fa sapere il Ministero dello Sviluppo Economico con una nota sottolineando che ieri sera i provvedimenti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. È tempo questo di assemblee, perché solitamente sono tra maggio e giugno, ma ci ricordiamo tutti del lockdown, o comunque i mesi successivi al lockdown sono stati di grande attenzione, quindi queste assemblee sono state spostate in questi giorni e abbiamo sentito dell'Unione Petrolifera. Parliamo ora di Confcooperative, oggi assemblea annuale e intervento presso la Confcooperative anche del Presidente del Consiglio Conte. Partiamo però dal padrone di casa, il presidente Maurizio Gardini, che ha fatto una serie di richieste all'esecutivo, tra tutte ripartire dagli investimenti. Ascoltiamo le sue parole. L'assemblea di Confcooperative è stata una straordinaria occasione di confronto con il governo. Vogliamo guardare avanti, vogliamo dare un contributo alla ripresa del nostro paese, vogliamo utilizzare al meglio le risorse del recovery plan. Innanzitutto le infrastrutture viarie, le infrastrutture tecnologiche, le infrastrutture sociali. Abbiamo bisogno di un piano straordinario di manutenzione del nostro paese per evitare di piangere morti, lutti e per evitare di contare i grandi danni anche di questi ultimi giorni in Liguria e in Piemonte. Ma poi abbiamo bisogno di sostenere le nostre imprese, di rafforzarle, di rafforzare la patrimonializzazione. Abbiamo bisogno di difendere e sostenere il nostro agroalimentare in questa sfida sui mercati dell'export. abbiamo bisogno di sburocratizzare il nostro sistema produttivo, abbiamo bisogno di sostenere le nostre banche, soprattutto le banche locali, le banche di credito cooperativo, che sono l'ossatura del sostegno ai territori e alle aree più difficili, alle aree più deboli dove è più difficile fare business. Difendere le banche di credito cooperativo è un impegno per il futuro, riportarle alla loro vocazione e alla necessità di essere le vere banche del territorio è la nostra sfida. Noi ci siamo, la cooperazione c'è a fianco delle istituzioni per far ricrescere e sviluppare il paese. Queste dunque le richieste al governo, ma anche le proposte da parte di Confcooperative. Il presidente Maurizio Gardini, dicevamo, la presenza in sala e poi dal palco del presidente del Consiglio Conte. Il paese è grato alle cooperative per il loro impegno, e poi Conte è tornato sul ruolo che deve avere l'Unione Europea per dare una svolta, per far tornare i vari paesi europei a crescere. Sentiamo il premier Conte. La svolta è che l'Europa per la prima volta ha abbandonato una prospettiva di austerità che aveva sempre negli ultimi lustri coltivato. L'Europa si è orientata verso un modello di sviluppo verde, sostenibile, digitale, e ha consentito ai Paesi membri, in particolare ai Paesi in difficoltà, più in difficoltà come l'Italia, di poter pianificare proprio adesso, nel momento di massima difficoltà, investimenti, riforme strutturali. Quindi c'è un segno concreto importantissimo, ci sono risorse cospicue a portata di mano, ma ancora più significativo la svolta ideale nella prospettiva di affrontare una crisi economica che riguarda tutta l'Europa e deve riguardare il mondo intero. E così il premier Giuseppe Conte, che aggiunge: coinvolgeremo le migliori energie del paese. Andiamo molto velocemente, quindi salterei direttamente ai commenti e agli impulsi che arrivano all'esecutivo da parte delle cosiddette parti sociali, quindi sindacati e in questo caso mondo produttivo. Abbiamo sentito anche il Presidente della Repubblica Mattarella sottolineare l'importanza dell'industria per il rilancio del nostro paese. Allora oggi da sottolineare gli interventi del neopresidente di Confindustria Bonomi, intervenuto all'evento Restart del Sole 24 Ore, ha parlato di Recovery Fund, ma soprattutto ha chiesto al governo che nelle scelte prossime nell'utilizzo del recovery plan siano coinvolti parti sociali, le opposizioni, insomma che il governo non faccia tutto da solo ma prenda il meglio dal resto del paese. Ascoltiamo l'intervento di Bonomi. Gli Stati membri hanno finalmente dimostrato la consapevolezza di essere partecipi di un destino comune, dando vita a un progetto che, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, nasce per essere finanziato con debito europeo. Tuttavia, i meccanismi di governance dell'Unione hanno dimostrato anche in questa occasione la necessità di un disegno organico di riforma che sappia coniugare la rappresentatività delle istituzioni con l'efficacia dei processi decisionali, al fine di rispondere meglio alle esigenze economico-sociali nell'ottica dell'interesse comune dell'Unione stessa. Una nuova fase di politiche che puntano sul rilancio dell'industria quale strumento per la rinascita dell'economia europea è stata finalmente avviata. L'industria è infatti considerata non solo il soggetto che può guidare la transizione dell'economia e della società europea verso la digitalizzazione, la neutralità climatica e l'economia circolare, ma anche il soggetto che può assicurare la sovranità dell'Europa rispetto alle grandi piattaforme economiche e la sua resilienza. A questo fine si tratta di avviare politiche che consentano all'Europa di rendersi tecnologicamente indipendente, sviluppando tecnologie abilitanti che rivestano importanza strategica per il futuro industriale europeo. Abbiamo sentito Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Il passaggio forse più forte è laddove dice: non basta fare gli inviti ma avere la voglia di confrontarci e fare qualche cosa, perché questo paese ha necessità di una visione, dice Bonomi, ci possono dare tutti i miliardi che vogliono, ma se noi non crediamo nella tua visione non investiremo, devi coinvolgerci in una visione di paese. Vogliamo un paese in cui sta aumentando il tasso di disoccupazione, stanno aumentando gli inattivi, si chiede Bonomi. Io credo che sulla visione ci si debba confrontare, saranno mesi difficili, molto complicati, aggiunge il leader degli industriali. Noi andiamo velocemente verso la nostra prima pausa, ma prima facciamo ascoltare il ministro dello sviluppo economico Patuanelli nel file, laddove sottolinea però anche lui quanto sia importante il ruolo delle imprese, il ruolo dell'impresa nella nostra economia. È chiaro che è tutto più complicato per chi fa impresa, soprattutto è molto complicato prevedere gli investimenti necessari per far quel salto alle proprie imprese di innovazione, di digitalizzazione verso le tecnologie di frontiera. Io credo che si debba parlare dei diritti dell'impresa e per questo uno dei collegati alla legge di bilancio che ho voluto inserire, ovviamente con il consenso di tutti gli altri colleghi ministri, è un disegno di legge sui uno statuto dell'impresa, che ritengo sia fondamentale iniziare a parlare di come garantire delle certezze a chi fa impresa. E così Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, nel corso dell'evento Sole 24 Ore Made in Italy The Restart. Io direi di fermarci qui e cerchiamo poi di riprendere altre voci che volevo far sentire, ma le contestualizzeremo poi nel nostro primo blocco dedicato alle previsioni del governo. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. minuti, riprendiamo dal super bonus e il sisma bonus. Lo abbiamo detto, oggi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, quindi i due interventi sono pienamente operativi e il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ne rivendica giustamente l'importanza e dice: con il super bonus finalmente un settore in crisi dal 2008 che da quella crisi non è mai uscito, come l'edilizia, potrà vedere un po' di luce e ricominciare ad investire nella forza lavoro. Sentiamo. Credo che sia una misura veramente importante che abbiamo voluto implementare, che abbiamo voluto fortemente come governo, perché tiene dentro tre grandi questioni. Dal primo punto di vista è l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza antisismica degli edifici. E quindi questo è un primo elemento. Abbiamo un patrimonio edilizio piuttosto datato che mostra i segni del tempo e ha bisogno di un profondo intervento di recupero. E questo era l'elemento centrale. Il secondo elemento è che finalmente un settore in crisi dal 2008, che da quella crisi non è mai riuscito ad uscire e che ha lasciato sul campo migliaia e migliaia di posti di lavoro e di piccoli imprenditori, come il settore dell'edilizia, potrà finalmente vedere un po' di luce e potrà in qualche modo ricominciare ad investire anche nella forza lavoro. E questo è un altro elemento importante. Il terzo elemento è che molto spesso vivere in un'abitazione sicura e confortevole è privilegio per le classi più abbienti del nostro paese. E questa invece è una misura che consente, senza sborso di denaro per le persone, di riqualificare energeticamente e mettere in sicurezza antisismica gli immobili. E così dunque il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, che rivendica le misure contenute nel super bonus, quindi gli obiettivi di questa misura. Ricordiamo, Patuanelli intervenuto all'evento del Sole 24 Ore Made in Italy The Restart, intervento al Sole 24 Ore anche del governatore di Banca Italia Visco, che è tornato su un annoso nodo per l'industria italiana, che da una parte è un elemento di forza, le piccole e medie imprese, tessuto produttivo forte del nostro paese, che ha contribuito a tanti anni di crescita economica, ma potrebbe questo modello, già in crisi pre-Covid, potrebbe esserlo maggiormente in questo momento. Allora sentiamo cosa dice Visco a proposito delle piccole imprese. C'è molta polemica di questi tempi sulle dimensioni delle banche, così come c'è sulle dimensioni delle imprese. Noi abbiamo un paese che ha imprese molto piccole, forse si dice questa è la vitalità dell'economia italiana. Sì, però bisogna anche dire che la produttività dei milioni di piccole imprese italiane è la metà della produttività delle poche, medie e grandi imprese che ci sono. E per le piccole imprese è più difficile, vorrà dire anche immaginare sistemi di finanziamento diversi. Si parla tanto di scoring, di uso di strumenti di machine learning, di intelligenza artificiale, come si dice, per andare a valutare le prospettive più che lo stato di queste imprese, ma devono crescere. Il punto fondamentale: non possono stare così piccole le imprese. Le imprese, dunque, secondo il governatore di Banca Italia Visco, non possono restare così piccole. Tutti gli elementi del tessuto produttivo italiano che sicuramente il governo avrà tenuto in considerazione elaborando la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, argomento del nostro prossimo approfondimento. Quindi parliamo della NADEF, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, e ci aiuta a capirne i vari risvolti il collega del Sole 24 Ore Dino Pesole, che saluto. Buonasera Vincenzo, buonasera a tutti. Buonasera Dino, allora ricordiamo la nota di aggiornamento che ieri ha passato l'esame in Consiglio dei Ministri per poi andare in Parlamento. Misura di fatto i colpi, così li possiamo immaginare, di un martello Covid all'economia, alla finanza pubblica, e di base individua come si può ripartire nei prossimi anni. Lo scenario di base, Dino, è quello di un'economia che non dovrebbe subire ulteriori colpi dalla curva epidemica. Logicamente il governo ha preso in considerazione anche scenari laddove invece vi fosse un'influenza forte di un'eventuale seconda ondata. Dino, per tua esperienza, come prima domanda, tanti anni che segui la politica economica del governo, c'è stata mai una NADEF, adesso si chiama così, che poi tu hai ritrovato svilupparsi nelle realtà negli anni successivi, o dobbiamo prendere questi numeri sempre così, molto con il beneficio dell'inventario? No, per la verità negli ultimi anni precedenti all'esplodere della pandemia le stime che sono state messe a punto, più o meno questioni decimali, ma alla fine sono dimostrate in linea. Il problema è che quest'anno siamo in una dimensione a carattere assolutamente eccezionale, quindi l'esercizio previsionale presenta un altissimo livello di incertezza, e non a caso appunto il governo, nel fotografare la profondità della recessione in atto, il PIL quest'anno, se va bene, scenderà di 9 punti percentuali, è la contrazione più violenta che noi abbiamo mai subito in tempo di pace dalla storia nazionale italiana. Quindi insomma è evidente in questi numeri il peso catastrofico di questa pandemia, col debito che volerà al 158% del PIL, insomma. E però il governo cosa fa? Nel prevedere uno scenario 2021 ipotizza che se non ci sarà un'esplosione dei contagi e che dunque la pandemia possa essere sostanzialmente sotto controllo, l'anno prossimo ci possa essere un rimbalzo, come si chiama in termini tecnici, addirittura del 6%, il che consentirebbe di ritornare nel 2022 ai livelli di crescita pre-Covid. Attenzione però, perché giustamente, come tu ricordavi, nella NADEF c'è anche lo scenario più pessimistico, quello in cui invece la curva, che peraltro è già in aumento ad agosto, riprenda in modo esponenziale. Quest'anno il PIL si contrarrebbe dello 10,5%, e l'anno prossimo la ripresa sarebbe limitata all'1,8%. In questo caso avremmo a che fare con una sorta di doppia recessione ed è sicuramente uno scenario da evitare a tutti i costi, tanto che proprio pochi minuti fa il ministro dell'economia Roberto Gualtieri lo ha definito uno scenario poco probabile e insomma speriamo tutti che abbia ragione. Certamente, a parte ecco Dino, io mi fido di quello che dici, ma certo un ribalzo del 6% il prossimo anno sarebbe a livello di crescita cinese, certo si può dire siamo così scesi quest'anno nel 2020 che necessariamente dobbiamo avere poi una risalita, però parlavi ecco Dino del ministro dell'economia Gualtieri, sentiamo proprio Gualtieri che ha parlato come dicevi tu nel primo pomeriggio, ha fatto una conferenza stampa illustrando i numeri della NADEF Gualtieri in questo primo audio che andiamo ad ascoltare parla in particolare dell'intervento sul debito. Per quanto riguarda la NADEF, credo che chi l'ha letta avrà avuto modo di apprezzare come questo documento delinea una strategia organica e coerente per sostenere il rilancio della crescita e dell'occupazione in una dimensione di trasformazione del paese, di innovazione nella direzione della digitalizzazione, della sostenibilità, della coesione sociale, territoriale e di genere, e che al tempo stesso definisce anche un sentiero credibile e sostenibile di discesa del debito. Eh sì, perché di fatto il PIL è importante, misura, lo sappiamo, la crescita, ma poi altri indicatori fondamentali sono di fatto quello che possiamo tastare ogni giorno con mano, il mondo dell'occupazione, ma soprattutto il debito, che è questo colosso che ci portiamo avanti da anni. Allora, abbiamo ascoltato Gualtieri sul debito, ci fermiamo brevemente e poi ripartiamo con Dino Pesole e sempre parliamo soprattutto del prodotto interno lordo. Strade in diretta. Ben ritrovati all'ascolto. In Toscana, sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per un mezzo pesante in avaria tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Milano. In Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia, code sul nuovo ponte San Giorgio in direzione Ventimiglia, causa materiali dispersi nella galleria Coronata. In Lombardia, sulla Milano Meda, code per un incidente tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano in direzione Milano. Traffico in forte aumento per gli spostamenti della sera in uscita dai grandi centri urbani. Sulla diramazione Gallarate Gattico segnaliamo code per lavori tra l'innesto con la 8 e la barriera di Gallarate Ovest verso la A26. È tutto, strada in diretta, torna tra circa 30 minuti. Focus Economia. Minuti, Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta, ci aiuta a capire meglio i numeri previsionali del governo il collega del Sole 24 Ore Dino Pesole. Dino, abbiamo sentito Gualtieri parlare di una discesa sostenibile e credibile del debito. Gualtieri dice, lo abbiamo già anticipato noi, la stima del PIL per quest'anno è meno 9%, ma forse potremmo fare anche meglio. Ascoltiamo Gualtieri e poi un tuo commento. La nostra previsione è il 9% e siamo stati persino, diciamo, prudenti, perché i dati del terzo trimestre e la possibilità concreta che il quarto vada un po' meglio del dato molto molto moderato, diciamo così, che abbiamo stimato, ci consentirebbe di chiudere l'anno invece con un dato ancora migliore, diciamo così, o meno peggiore, visto che stiamo sempre parlando di una caduta del PIL. Dino, queste parole di Gualtieri, a te il commento. No, queste parole fotografano esattamente la situazione. Noi abbiamo registrato nei primi due trimestri dell'anno una contrazione del PIL pazzesca. È ovvio che in coincidenza con la riapertura dopo il lockdown delle attività produttive, in gran parte, poi vabbè, abbiamo avuto problemi sul turismo e molto altro, in ogni caso nel terzo trimestre e nel quarto è attesa una un'inversione di tendenza che dovrebbe appunto consentire di contenere la contrazione del PIL entro il meno 9%. Il problema è che questo dato, dato per assodato ormai, che il 2020 ormai è consegnato alle cronache come il peggiore anno della nostra storia dal punto di vista del PIL e dei conti pubblici, proietta delle incognite sul 2021 e da questo punto di vista è assolutamente necessario e prioritario che il governo e il Parlamento decidano insieme di utilizzare al meglio i fondi europei, questi 209 miliardi del Recovery Fund, che poi si sommano ai 27 miliardi del Fondo Shore e, qualora il governo decidesse, ai 36 miliardi del MES, decida di utilizzarli al meglio, perché è evidente che per ridurre il debito pubblico secondo lo schema ipotizzato dal governo, peraltro apro e chiudo una parentesi, lo stesso Gualtieri qualche giorno fa ha detto che stante l'attuale situazione noi torneremmo attorno al 130% del PIL, che poi è il valore pre-Covid, solo tra 10 anni. Per fare questo occorre che il denominatore, vale a dire la crescita, sia più sostenuta, perché se la crescita è meno sostenuta il debito non scende. Certo. Quindi questo è, come dire, aritmetico in qualche modo. E allora Dino, scusami, se parliamo di debito e tu stesso hai detto che i fondi del Recovery Plan comunque arriveranno nel 2021, ma credo non prima della metà del prossimo anno. È tempo questo di manovra, una manovra in deficit la prossima, quindi andiamo ad aggravare ulteriormente il nostro debito. È una manovra che prevede una serie di coperture, la più consistente delle quali, sì, sostanzialmente ricavata in deficit, è sostanzialmente lo spazio concordato con Bruxelles tra il livello di deficit programmato che è attorno al 2021, che è attorno al 7%, e quello che sarebbe a legislazione invariata, cioè se non si facesse niente. C'è uno spazio, certo, di circa 1,3 punti di PIL, che equivale a 22 miliardi, e per il resto le coperture per una manovra da circa 40 miliardi le si sono nelle voci rituali, cioè lotta all'evasione, si spera in un effetto propulsivo delle misure della manovra che spingerebbero il PIL e quindi in qualche modo sarebbe autofinanziata, cioè di nuovo il ricorso alla spending review, al taglio delle agevolazioni fiscali. C'è una serie di attendi che dovrebbero comporre questa manovra, ma è evidente che la scommessa qui è una sola. Bisogna provare a spingere in tutti i modi perché la crescita sia più robusta. Certo, se non cresce l'economia, solo da lì possono arrivare nuove risorse, anche perché, con tutto il rispetto, ma non per te Dino, ma per le voci di intervento, citavi la spending review, citavi la lotta all'evasione fiscale, io ho i capelli bianchi da un po' di anni, ma credo che tutti li abbiano aggiunti sperando nella spending review o lotta all'evasione fiscale. Detto questo, mia colpa, non ho ricordato il 349-238-6666 per gli SMS, per i WhatsApp, siamo poi in diretta sui principali social. Un argomento che interessa a tanti, Dino, è il solito, il taglio della pressione fiscale. Sotto questo aspetto il governo cosa intende fare? Allora, intende fare due cose sostanzialmente. Nel 2021 non ci sarà l'attesa riforma complessiva del fisco per evidenti motivi di copertura, ma ci sarà la conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi e appunto l'avvio di questa operazione sull'assegno unico per i figli, che è una parte, anche se vogliamo, del complessivo disegno di riordino fiscale. Ma invece la riforma vera e propria sarà affidata a un disegno di legge delega e dunque si immagina che sarà varata nel corso del prossimo anno con effetti a partire dal 2022. E c'è ancora una volta la scommessa, io la definirei tale perché finora non c'è riuscito nessuno, a finanziare una parte di questa riforma attraverso la revisione, vogliamo chiamarla così, alcuni la definiscono taglio, delle cosiddette spese fiscali, che poi sono detrazioni, deduzioni, sconti e quant'altro, che ammontano a circa 100 miliardi nel totale, Ed è un'operazione che ha un costo evidente in termini di consenso, perché laddove si va a toccare un beneficio è chiaro che le categorie coinvolte protestano e quindi bisogna affrontare questo rischio. Quanto sarà possibile recuperare dal taglio delle cosiddette tax expenditure o spese fiscali? Non sì. È dato saperlo perché non c'è scritto nella NADEF, però insomma questa è una partita. E poi l'altra, l'aumento, quella che il governo chiama compliance, cioè la decisione spontanea al pagamento delle imposte, attraverso il potenziamento degli strumenti telematici, dunque il tracciamento dei pagamenti. Tracciamento, certo. E questi sono gli strumenti. E quanto saranno efficaci e quanto potranno generare in termini di maggiore gettito è difficilissimo stabilirlo fin d'ora. Non si saprà a fine 2021. E così si potrebbero creare gli spazi per finanziare almeno una parte della riforma fiscale. E poi il sottosegretario all'economia e alle finanze Baretta, 24 Mattino, di Simone Spezia, si espone sul modello tedesco. Sentiamo. È una delle ipotesi, a me convince abbastanza, perché delinea una curva nella quale il rapporto tra il cittadino e il fisco è molto diretto. Quindi la curva che consente di avere quasi un'aliquota individuale, diciamo così, forse è una risposta fortemente innovativa. E così Baretta dunque a 24 Mattino di Simone Spezia, del modello tedesco. Spero riusciremo a parlare la prossima volta con Dino Pesole, che ringrazio. Dino Pesole del Sole 24 Ore. E ci fermiamo, diamo spazio al giornale radio delle 18. Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto? Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte? No. Ah, ecco, si capisce. Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24. In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. quasi 18:09, quasi 08:48 secondi, in studio Vincenzo Miglietta. Ripartiamo dai mercati, lo facciamo con Stefania Arcudi. Buon pomeriggio Stefania, vedo oggi mercati, almeno quelli europei, tutti con segno positivo. Buongiorno a voi, buon pomeriggio, anzi sì, ma è stata una seduta positiva per le borse europee che in realtà nella prima parte della giornata avevano avuto numerose incertezze e cambi di passo. Poi nel pomeriggio sono arrivate le parole della presidente della BCE, Christine Lagarde, che ha incoraggiato i mercati, che infatti hanno chiuso tutti positivi. Milano ha guadagnato lo 0,8%, Parigi, Francoforte circa mezzo punto, meglio ancora Madrid l'1,4%, un po' più indietro Londra con un più 0,12%. Lagarde appunto ha aperto alla possibilità di nuovi aiuti per l'economia e addirittura alla possibilità di tagliare ulteriormente i tassi. Ricordiamo che i tassi di interesse sono fermi a zero, quelli sui depositi sono già negativi, per 1,0%, 50%. Quindi questo ha incoraggiato i mercati, in particolare il settore bancario. Quindi un'apertura da parte della Lagarde, quindi BCE per altri stimoli all'economia. Ecco, venendo a Milano, interessante lo spread sotto la soglia dei 130 punti, e per quanto riguarda i titoli? Sì, appunto, proprio lo spread così in ribasso è sceso a 128 punti quest'oggi, livelli che non si vedevano da febbraio scorso, con il rendimento decennale allo 0,78%, un minimo storico. E questo ha incoraggiato soprattutto il settore bancario, che ha viaggiato a vele spiegate. Banco BPM ha guadagnato per esempio il 5,6%, Unicredit il 5,5%, Banca Mediolanum il 5,3%, a seguire le altre Biper il 4,1%. Ovviamente hanno beneficiato della possibilità appunto di tassi bassi ancora molto a lungo. Peraltro anche in Europa il settore bancario è stato nettamente il migliore, con un rialzo dell'Eurostox del 3,3%. A Piazza Affari poi sono andati bene anche gli industriali. La migliore infatti è stata Pirelli, che ha guadagnato il 6,5%. Insomma, peraltro Pirelli veniva da una settimana non positiva, la settimana scorsa era stata tra le peggiori, con un calo attorno al 3%. Bene, grazie. Grazie a Stefania Arcudi di Radio Cora. Archiviamo dunque questo martedì positivo a Piazza Affari e passiamo a parlare del decreto legge agosto. Vado veloce perché mi interessa molto questo argomento, il decreto legge agosto. Oggi il voto del Senato, il testo, il provvedimento passa alla Camera, e con noi il collega del Sole 24 Ore, Giorgio Pogliotti, che saluto. Buonasera. Giorgio, allora, il decreto agosto contiene tanti aspetti, ma quello che forse ai nostri ascoltatori interessa di più sono sempre le novità per il mondo del lavoro. Raccontaci quali sono le novità che hanno arricchito il provvedimento nel suo percorso a Palazzo Madama. Sì, in realtà diciamo come novità grossa sul mercato del lavoro c'è una cosa che interesserà sicuramente adesso, visto che siamo in fase di epidemia Covid. C'è la possibilità per i genitori con figli fino a 14 anni che dovessero essere appunto messi in quarantena per malattia, per appunto una quarantena per un evento, appunto contagi che avvengono non solo dentro il plesso scolastico, ma anche in palestra, anche mentre si fa sport o anche in una scuola di musica o di lingue. Ebbene, i genitori possono per questo periodo possono appunto chiedere di fare lavoro agile, quindi lavoro, sì, lo smart working, o se la loro attività appunto non è compatibile con il lavoro agile, possono chiedere di essere messi in congedo, e in quel caso però hanno appunto il 50% della retribuzione. Questa secondo me è un po' la principale novità che c'è, perché per il resto Camera e Senato tendenzialmente tenderanno a confermare appunto il testo che ha introdotto. Il Senato appunto l'ha confermato oggi, la Camera non avrà ampi margini, visto che il decreto legge del 14 agosto, quindi i tempi per la conversione sono piuttosto ristretti. Il Senato ha confermato un impianto che diciamo sul fronte del mercato del lavoro contiene grosse novità. Anzitutto c'è la proroga della cassa integrazione Covid, altre 18 settimane retroattive dal 13 luglio fino al 31 dicembre. Ebbene, le prime 9 settimane sono gratuite per tutti, le seconde 9 settimane di cassa integrazione diventano onerose per alcune imprese, cioè le imprese che praticamente hanno perso oltre il 20% di fatturato nel confronto tra il primo semestre di quest'anno e quello dello scorso anno continuano ad avere la gratuità per tutte le 18 settimane. Le imprese che hanno perso fino al 20% invece dovranno pagare un contributo del 9%, e invece le imprese che non hanno perso nulla dovranno pagare un contributo del 18%. Quindi questo è una novità, visto che finora la cassa Covid, sì, gravava interamente sulla fiscalità generale. Ecco Giorgio, poiché non abbiamo tantissimo tempo, sì, vogliamo fare il punto, perché anche il nostro target di ascolto è interessato a questo aspetto della proroga del blocco dei licenziamenti contenuta nel DL, sì, agosto. c'è un principio che viene sancito, e cioè viene confermato il blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per motivi economici, sostanzialmente possiamo dire fino al 31 dicembre di quest'anno, con alcune eccezioni, cioè i casi in cui nelle aziende in cui ci sono per esempio accordi sugli esodi incentivati, oppure le aziende in cui ci sono cessazioni in caso di fallimento, in questi casi appunto non opera il blocco dei licenziamenti. Ma poi viene introdotto un ulteriore principio: per tutto il periodo in cui un'azienda beneficia di un contributo pubblico non può licenziare. Quindi siccome ci sono degli incentivi, ora vi ricordo solo sommariamente, incentivi per chi non ricorre per esempio alla cassa integrazione, il datore di lavoro ha fino a 4 mesi di decontribuzione totale, ebbene mentre prende questa decontribuzione, mentre beneficia di questa decontribuzione non può licenziare. Certo. La stessa cosa riguarda appunto per l'incentivo sulle assunzioni, sono previsti fino a 6 mesi di totale sgravio contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato. Però mentre si beneficia di questo sgravio non è possibile licenziare, quindi questo è diciamo un'altra novità e questa, che è stata introdotta. Certo, e questa lo ricordiamo è una norma che ha animato molto il dibattito, sicuramente torneremo a parlare di questo blocco quando poi scadrà e vedremo il governo che decisioni ulteriori potrà prendere. Io ringrazio Giorgio Pogliotti, collega del Sole 24 Ore, ci fermiamo e poi andiamo verso il nostro ultimo approfondimento. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presento Focus Economia. Il nostro ultimo approfondimento è dedicato al turismo, abbiamo dei dati parziali, delle stime poi anche spalmate per tutto il 2020 su quali sono e quali potrebbero essere gli effetti del Covid, del profondo lockdown su questo settore così importante per il nostro paese, ne parleremo tra brevissimo. Prima vi ricordo che da domani, in occasione del mese dedicato dal Ministero dell'Economia e Finanza all'educazione finanziaria, il Sole 24 Ore pubblicherà ogni mercoledì, quindi da domani a partire dal 7 ottobre, 4 inserti estraibili che spiegano come funzionano i mercati al tempo della pandemia e proteggere i propri risparmi. Questo quindi l'appuntamento domani in edicola con il Sole 24 Ore. Dicevamo del turismo, lo abbiamo sottolineato in apertura di trasmissione, il lockdown ha dato un colpo non dico mortale, perché abbiamo speranze che il nostro settore possa sicuramente riprendersi, ma un colpo molto forte al settore del turismo. Ne parliamo con la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, che saluto. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Dottoressa Lalli, allora, prima del suo intervento anticipo quello che secondo una stima di demoscopica il settore del turismo vivrebbe nel nostro paese una contrazione nei soli primi 8 mesi dell'anno di oltre il 50%, sia per quanto riguarda le presenze che per quanto riguarda gli arrivi, conseguenza di questo abbattimento del turismo, anche i minori incassi per gli enti locali sulla tassa di soggiorno. Insomma, da dove si può ripartire per rilanciare questo settore così importante per il nostro paese? Guardi, adesso chiaramente ogni comparto turistico sta facendo un po' i conti con questa che lei ha descritto come una situazione effettivamente molto preoccupante. E ci sono comparti ovviamente più colpiti, altri meno colpiti, e in quanto quelli sono semplicemente dati di media. E quello che noi possiamo fare, a seconda dello stato diciamo di forza di ogni singola azienda, è o quello di reinventare il nostro business passando anche attraverso una riqualificazione dell'offerta, che è qualcosa su cui ci dobbiamo sicuramente concentrare. Ma ovviamente per fare questo, che significa altri investimenti, c'è bisogno comunque di avere un aiuto importante, e questo passa attraverso aiuti intanto con un andare a rimandare o a cassare parte relativa all'imposizione fiscale di questo periodo così nero. Certo. E anche con aiuti anche a fondo perduto dove serve, con aiuti alla riqualificazione, che sarà il nostro unico modo per ripartire. Ecco, lei parla di riqualificazione, quindi dell'offerta turistica. Indubbiamente può essere questa l'occasione per attrarre un turismo di maggiore qualità e quindi con un apporto anche economico diverso. Prima di approfondire questo aspetto, possiamo ascoltare insieme Marina Lalli, presidente Federturismo Confindustria, le parole del ministro Franceschini, intervenuto oggi sempre al convegno, all'evento del Sole 24 Ore, le sue parole proprio sul turismo. Finita l'emergenza, il turismo internazionale in Italia tornerà imponente come prima e con i numeri di prima o probabilmente di più, perché la gente avrà più voglia di viaggiare, di godersi la vita, di vedere l'Italia. Non a caso, fino al gennaio dell'anno scorso, si ricorderà, il problema era come evitare il sovraffollamento, l'overbooking nei luoghi più famosi del mondo, più famosi nel mondo, nelle nostre città d'arte. Pensavamo come fare a contenere i grandi numeri su Venezia, su Firenze, su Roma, come distribuire il turismo in tutta Italia. Quindi il turismo tornerà. Noi dobbiamo aiutare le imprese a superare l'attraversamento di questo deserto, in attesa che la certezza della crescita del turismo ritorni. Quindi, da un lato, abbiamo approvato molte misure di emergenza finalizzate al turismo per sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche. Va fatto ancora di più, perché la crisi si allunga e il turismo, se i dati del contagio non migliorano, il turismo rallenta evidentemente, come è evidente, ma contemporaneamente bisogna fare degli investimenti anche per il dopo. Per questo sul Recovery Fund io sto chiedendo, come tutti i ministri, diverse cose. Ecco, queste dunque le parole del ministro dei beni culturali e turismo Dario Franceschini. Franceschini ha utilizzato un termine, deserto, per definire l'attuale momento per il turismo. Ne stiamo parlando con la presidente di Federturismo Confindustria, Lalli. È veramente un deserto, Lalli, e da dove si può ripartire? Sì, lo è, e quindi noi abbiamo veramente bisogno di essere accompagnati per mano attraverso questa fase, perché da soli non ce la possiamo fare, non possiamo rispettare tutte le scadenze che abbiamo sempre rispettato, dobbiamo avere la certezza che questo per noi non si applicherà, e quindi dobbiamo farlo anche grazie al Recovery Fund. Il problema del Recovery Fund però è che non è qualcosa di immediato. Quindi noi non riusciamo ad arrivare al momento in cui questi soldi arriveranno, abbiamo bisogno di un intervento anche adesso. Un metodo può essere per esempio quello di utilizzare sin da subito tutto ciò che è avanzato dal bonus vacanza, ed è parecchio, e quindi potremmo iniziare ad utilizzare quei fondi che sono già destinati al turismo proprio per tutte le aziende del comparto turistico. Ecco, io penso che ci sia però necessità, mi dica se dico il giusto o meno, che comunque questi fondi che ancora sono a disposizione siano indirizzati veramente a quei comparti che maggiormente hanno sofferto la crisi. Mi spiego meglio, così per un'esperienza empirica personale si può dire che comunque tutto il settore legato, faccio un esempio, al turismo estivo può tendenzialmente non aver subito delle ripercussioni così forti, mentre le classiche città d'arte sono spopolate. Non a caso Veneto, Sicilia, Toscana, Lombardia e Lazio sono le regioni più colpite. Come si fa a fare in modo che chi ha veramente bisogno ottenga quei fondi e che non vadano così a pioggia un po' a tutti? Sì, un metodo che può essere, diciamo, giusto è quello di andare a vedere la comparazione tra fatturato 2020 e 2019, e in questo modo si va veramente a capire qual è l'azienda che ha sofferto di più, perché è vero che durante il mese di agosto, ma forse anche parte di luglio, si è lavorato abbastanza bene, quindi il mare, parlo, o la montagna anche, sì, hanno lavorato bene. Però non vuol dire che poi riescono a tenersi in piedi per tutto l'anno queste aziende. E sicuramente le città d'arte invece non hanno lavorato neanche in quel periodo, e purtroppo alcuni stentano a riaprire anche adesso, quindi è una situazione che va tenuta assolutamente sotto controllo, perché non può certo rimanere così. Ecco, un suo giudizio lapidario sul bonus vacanze. Tornando indietro, consiglierebbe il governo di ripresentarlo o si potrebbe pensare a qualcos'altro? Ma guarda, Guardi, il bonus vacanza intanto aveva soltanto una parte di turismo presente quando è nato, perché si parlava prevalentemente di ricettivo, ma noi abbiamo tenuto fuori comunque una serie di altre situazioni, penso al trasporto turistico, penso alla parte degli aeroporti, il travel retail, l'intrattenimento, insomma i ristoranti, sono tanti che sono rimasti completamente fuori da questa misura, dove pure c'erano 2 miliardi e 4, quindi abbastanza imponente. E quindi sì, io penserei di utilizzare le somme, avrei pensato di utilizzare le somme per andare in realtà ad aiutare proprio l'intero comparto del turismo. E comunque adesso abbiamo visto che questo anticipo comunque della misura a carico delle aziende alla fine non ha funzionato in modo così come il governo avrebbe preferito che fosse, e quindi senz'altro è il caso di ripensare alla misura con quei fondi già stanziati. Ecco, una risposta lapidaria, perché siamo in chiusura, abbiamo detto, lo sentivamo anche dal ministro Franceschini, un anno fa c'era il problema delle città d'arte sommerse da un turismo che probabilmente non era così di qualità. Come si può fare ad attrarre un turismo maggiormente attento e che non sia così invasivo per le nostre città? Dobbiamo ripensare alla nostra offerta in chiave sostenibile e in chiave soprattutto di qualificazione dell'offerta. Solo così possiamo parlare ad un pubblico diverso che comunque ci lasci almeno quanto ci lasciava la Mole precedente. Bene. Grazie a Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria. Siamo in chiusura. Io ringrazio Alessandro Chiappini e Valeria Bernardi in regia, Maria Sole Lisciandro e Danilo Di Trani come assistenza al programma. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta? Non la lascia più. Vai su aruba.it.